Introduzione da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, luglio 2007, Roma. Al delfino di Francia. Canto gli eroi, progenie, alma d'Esopo di cui l'istoria, anco se falsa, in fondo di verità nasconde altri concetti. Tutto parla nel mio nuovo poema, il can, la volpe e fin parlano i pesci, ma ciò che l'uno all'altro gli animali dicono fra loro, di te, lettor, si dice. O figlio illustre di gran re, sul quale guarda benigno il ciel, guarda la terra, d'un re che cento baldanzose teste abbassando, fra poco i giorni suoi col nome segnerà delle vittorie. Altri canti, con voce epica e grande, degli avi, i fasti e le virtù dei prenci. Di piccole vicende, il picciol quadro io per te pingerò dentro i miei versi. Che se all'impresa fia negato il dono di piacere al tuo cor, dolce signore, almen conforti il povero poeta, quel d'averla tentata umile premio. Fine dell'introduzione. Questa registrazione è di dominio pubblico.